in the face of our common dangers. It's the unbeliever. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. To all the activists, all the organizers, all the people who helped make this day happen, thank you. For your years of advocacy and activism, pushing and protesting, that made this victory possible. Barack Obama dà un annuncio importante, un altro punto conseguito nella sua gestione della Casa Bianca, un risultato che risponde almeno in parte a una promessa formulata dal Presidente, agire sulle questioni dei diritti civili, e lo ha fatto firmando una legge specifica contro le violenze nei confronti dei gay, un testo che prende il nome di Matthew Shepard, studente di college che venne torturato e ucciso nel 98, e di James Byrd, un uomo di colore nello stesso anno sottoposto a incredibili violenze nel Texas. Un risultato che arriva in un momento in cui su Barack Obama, oltre a discorsi, dibattiti, questioni, interrogativi, si cominciano ad addensare anche i temibili momenti dei bilanci, al tempo stesso mentre l'attualità procede e va avanti, e con essa deve fare prima di tutto i conti. Su tutto ciò oggi ragioniamo insieme in compagnia, lo ringraziamo per questo, di Maurizio Molinari, corrispondente da New York della Stampa, in questi giorni in Italia, anche per presentare il suo nuovo libro che, guarda caso, si chiama Il paese di Obama, come è cambiata l'America, esce dalla Terza, ritorno di indagine di Maurizio su un tema che credo professionalmente lo abbia occupato, se non a tempo pieno, quasi, ovvero l'ascesa e poi la stabilizzazione dell'amministrazione Obama. Ciao Maurizio, grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a voi, buongiorno. Nella seconda parte della puntata di oggi scenderemo nello specifico del libro di Maurizio, e seguiremo questo suo viaggio attraverso l'America, il viaggio che ha fatto nel seguire la elezione e poi la stabilizzazione appunto della presidenza Obama. Oggi invece, adesso, subito in apertura, utilizziamo le conoscenze e l'esperienza di Maurizio per commentare una serie di notizie in arrivo dagli Stati Uniti, le stesse che, come vuole il dettato del nostro programma, gli americani stanno apprendendo dai telegiornali e dai giornali mentre si svegliano. E cominciamo proprio da questa notizia che abbiamo appena dato, un risultato, una firma che arriva, Maurizio, alla fine anche di alcune polemiche sul tema, sull'approccio, no? Sulla decisione poi di Obama nell'affrontarlo. Cosa dici? Eh sì, perché sì, dal giorno dell'inaugurazione lui aveva scelto come pastore della cerimonia inaugurale Rick Warren di Saddleback Church in California, ostile alle nozze gay, e poi progressivamente lui ha voluto mandare dei segnali di crescente attenzione, quindi c'è stato uno shock iniziale. I gay l'avevano votato in massa come un loro rappresentante. L'inaugurazione fu un momento di crisi, un po' troppo trasversale come un po' troppo trasversale, e poi in realtà nelle ultime settimane prima si è detto a favore del superamento della politica Don't Ask, Don't Tell, quella, certo, di Clinton, cioè della possibilità per i gay di essere apertamente tali nelle forze armate, e adesso questa firma. L'impressione è che lui voglia consolidare il proprio zoccolo elettorale molto liberale. Benissimo, ascoltiamo un altro audio che è solo un rumore ma è estremamente evocativo. Sono immagini colte poche ore fa, nel momento in cui si sono concretizzate, anche a sorpresa. L'elicottero di Barack Obama che scende nella base aerea di Dover, nel vicino stato del Delaware. Il presidente si muove e va ad accogliere le bare dei soldati americani morti in Afghanistan il 26 ottobre, quando una serie di incidenti, ma forse non soltanto di incidenti per le notizie che man mano stanno arrivando, legate per l'appunto proprio al volo di elicotteri in zona di guerra in Afghanistan, hanno portato a una cifra di 18 vittime, rafforzando la convinzione che il fronte afgano è complesso, è fonte di dolore, è fonte di problematiche tutte da risolvere, è fonte di una ricerca di soluzioni su cui si sta lavorando, ma mi sembra con ancora una serie di opzioni aperte. Maurizio, prima di tutto, Bush un gesto di questo genere non lo compiva, è già questo, tra l'altro è stato compiuto piuttosto a sorpresa, no? È andato senza grandi annunci. Come inquadri questo gesto? Il lato umano è prevalente in questo. Il Pentagono addirittura non dava le foto delle barche che arrivavano, certo, nell'amministrazione Bush. Obama non solo ha dato via libera alla diffusione delle foto, ma adesso va lui ad accogliere le barche, un segno di forte solidarietà per le famiglie colpite, che vuole sottolineare il lato umano del presidente nell'approccio alla guerra, quando siamo alla vigilia della sua importante decisione politica sull'invio dei rinforzi. E mentre escono sui giornali americani articoli su articoli che dicono ne vale la pena, un po' l'aria che tira mediaticamente parlando, mi sembra sia un po' questa, vero? Sì, lui sente la necessità di comunicare agli americani che capisce il dolore del paese, capisce la ferita quanto è profonda, anche perché il numero delle vittime continua ad aumentare in maniera impressionante, superiore a quanto avveniva in Iraq nel fra il 2006 e il 2007. Pochi minuti fa è uscito un articolo, sempre naturalmente dal tono ormai regolarmente sfottente, ma dello sfottente ne parliamo un po' tra poco, su Fox News, che parla, indiscrezioni parlerebbero di questa scelta, che nel frattempo è stata ribattezzata McChrystal Light, cioè una versione annacquata numericamente parlando delle richieste del generale McChrystal per l'incremento di presenza di truppe americane in Afghanistan, quindi una media rest, insomma, percorsa dal presidente. Che cosa sì, dice? Sì, secondo queste indiscrezioni la scelta sarebbe: concentriamo le truppe nelle città e ritiriamole dalle zone meno densamente popolate, perché fra le altre cose è in queste zone che gli americani stanno subendo la maggiore quantità di perdite. È un po' una scommessa, perché non è quello che McChrystal voleva. L'interrogativo è: McChrystal poi eseguirà gli ordini del presidente, cioè resterà lì o si dimetterà? È un interrogativo non solo militare ma anche politico a Washington. Hello Virginia! I am so proud to stand up here with two Virginia leaders. Two men who wake up every single day. E così invece un Obama nei toni più vicino all'Obama che per anni, insomma, veramente anni abbiamo seguito e sentito qui in trasmissione, l'Obama del microfono, del palco, del sapore, della temperatura elettorale, non sta lavorando in questo momento in proprio, ma sta lavorando per la problematica rielezione di due democratici in Virginia e in New Jersey. New Jersey si è mosso in favore di Corzine con una certa sollecitudine, un certo impatto. In Virginia Maurizio ha esitato parecchio, anche perché è problematica quella elezione che vada in porto. Si è detto forse non si vuole sporcare le mani con un sapore di sconfitta, ma poi alla fine, come sentivamo in sottofondo, è andato e ha fatto del proprio, che è sempre un bel fare, insomma. È così? Dici. Obama vuole vincere in Virginia perché la Virginia è lo stato dei presidenti, è lo stato che ha votato tradizionalmente repubblicano e conservatore, che nel 2008 ha votato per lui, quindi per lui la Virginia... C'è un po' di referendum. Assolutamente, e si sta però indebolendo a causa della crisi economica e delle polemiche sulla riforma sanitaria. President Obama became the party's nominee. Questa è la voce del portavoce Gibbs, che quotidianamente dà un po' la temperatura della Casa Bianca ai giornalisti, e io a te, giornalista americano e italiano in America, e a fronte di tutto quello che sta succedendo in questo momento tra giornalisti e Casa Bianca, volevo chiedere un parere. Insomma, notizie dell'ultima ora parlano di incontri tra Gibbs e rappresentanti della Fox, dopo che Axelrod, lo stratega di Obama, ha già incontrato il presidente della Fox qualche settimana fa, ma mi sembra con risultati pessimi. Adesso si rifà e si cerca, la parola è truce, una tregua tra Fox e Casa Bianca. Ma secondo te, al di là degli ascolti da Fox che crescono, cos'è questa storia? La storia è che in America sta crescendo una rivolta di base contro il presidente degli Stati Uniti su due temi: la disoccupazione, che monta al 10%, e la riforma sanitaria, che agli americani non piace. Fox ha indovinato questi sentimenti e li rappresenta ogni giorno con toni molto aggressivi, con un follow up in continuazione sui blogger, su internet, che riprendono a valanga quello che la Fox dice, certo, con toni come quelli di Glenn Beck, molto molto duri, offensivi nei confronti del presidente, perché lo chiama razzista contro i bianchi. La Casa Bianca è stata obbligata a correre ai ripari, anche se fino a questo momento i risultati, sinceramente. Senti, ma un politico rampante come Cantor, no, un repubblicano, qualche giorno fa ha detto: secondo me un American è non americano che la Casa Bianca faccia una rappresaglia come quella che sta mettendo in atto in queste settimane contro la Fox, che però la Casa Bianca replica dicendo che è un-giornalistico, è non giornalistica l'attitudine utilizzata da Fox in questo periodo. Dove ti situi dal tuo punto di vista? Il problema che hanno i repubblicani è che questa base in rivolta è anche contro di loro. La base conservatrice contesta al Partito Repubblicano, compreso Eric Cantor, essere eccessivamente debole nei confronti di questo presidente. Certo. È la pancia conservatrice dell'America che si sta esprimendo ed è contro tutti. E Murdoch ne approfitta. E vende di più. L'ultima domanda, questa prima parte ti vogliamo sottoporre prima di passare a parlare del tuo libro, riguarda un personaggio che a noi da qua sembrava molto più efficace di quanto avremmo pensato e prospettato, ovvero il vicepresidente Joe Biden e soprattutto le sue attività internazionali, che mi sembrava tutto sommato alcuni risultati li raggiungesse. Escono dei sondaggi molto negativi nei confronti di Joe Biden, è molto più impopolare di Obama, è in calo di popolarità, è più impopolare di Cheney, fatti i soliti parametri e confronti. Quindi non è stata una scelta felice, secondo te? È impopolare, ma è molto influente sul presidente. Mm-hmm. Agli americani non piace molto di più Hillary, però la realtà vera è che lavora come un matto, incontra i militari dalla mattina alla sera, va a Baghdad, va molto a Kabul, presente. È molto presente, e soprattutto è lui che ha suggerito la formula McChrystal Light al presidente, dicendo meno truppe in Afghanistan, ma più attacchi contro Al-Qaeda in Pakistan. Bene, tra poco parliamo de Il paese di Obama, il nuovo libro di Maurizio Molinari. Buongiorno America. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute Insomma, abbiamo sentito tante volte, questo è il giorno in cui anche Barack Obama ha dimostrato che si poteva sbagliare nella fattispecie nel recitare la intorcinata, complicata formula del giuramento. Insomma, anche Obama si emoziona nella fattispecie il 20 gennaio sulle scale del Campidoglio, insomma, diventando presidente, ufficialmente presidente degli Stati Uniti d'America. Maurizio, hai seguito passo, credo che ho preso il giuramento, vero? La formidabile parabola, performance di Barack Obama. Ora questo libro la presenta, la ricostruisce, ma soprattutto, come recita anche il sottotitolo, come è cambiata l'America, lo connette con la nazione che rappresenta, la nazione che lo ha eletto, la nazione che tu, già nelle prime parole della tua introduzione, contraddistingui in un modo particolare. Dici: un viaggio attraverso le contraddizioni di una nazione, mai così complicato un paese, però alla fine esprime una scelta così stravagante e coraggiosa al tempo stesso. Assolutamente, i bianchi che votano per un nero che votano per un nero che si sente bianco, gli anziani che votano per un BlackBerry dipendente, un paese di contraddizioni che si è unito attorno a un leader per il suo messaggio unificatore. Obama dice: basta le divisioni fra conservatori e liberali ereditate dal 68, bisogna unire l'America. La leadership dell'America sta nella capacità di unire opinioni diverse, un po' la lezione di Lincoln, sulla quale scommette in tempi di crisi. L'America si è ritrovata su di lui. Il tuo libro è un libro on the road, è un libro sulla strada, è un libro che riassume, identificando, come dire, la personalità e anche la simbologia dei luoghi, identificando i passaggi sia del presidente, il carrozzone elettorale, poi dopo dell'amministrazione nel suo rappresentarsi e dei giornalisti al seguito, luogo per luogo. Però poi c'è anche, credo, come dire, una tua esperienza umana, no? Al seguito di Obama, tanto più venendo comunque da una cultura, una formazione italiana nell'assistere a questa performance. Ecco, da questo punto di vista, come racconteresti, come riassumeresti l'esperienza? Il mondo di Obama, visto da vicino, sono i BlackBerry. Fra di loro il team di Obama comunica fra BlackBerry anche da una stanza all'altra, certo. In continuazione sono attaccati, e questo significa produrre di più, ma comunicare in maniera molto molto essenziale. E poi il presidente gli piace giocare, non c'entra da fare, lui gioca a basket, gioca a baseball, interagisce sorridendo, questo è il suo metodo, ma quando si parla di politica è molto tosto. Come lui si è descritto due giorni fa a Jacksonville: I'm skinny but tough, sono magro ma molto tosto. Quando il lungo periodo di avvicinamento di Obama alla vittoria nelle primarie, come ricorderai, è stato il periodo del grande dubbio nei confronti di Obama, no? Affascinante, capace di conquistare, forse addirittura di ammaliare le folle che diventavano sempre più sterminate, però il grande dubbio poi del where is the beef, no? Dov'è la sostanza, ma quest'uomo davvero ha una statura... quando è che hai cominciato giornalisticamente a intuire che c'era una sostanza necessaria e sufficiente per aspirare addirittura a una presidenza? Ma sicuramente la vittoria in Iowa è stato un momento nel quale l'America intera e noi stessi che seguivamo ci siamo accorti che questo non era così schizzo, cioè che poteva davvero riuscire a farcela. Però il dubbio vero è rimasto fino all'inizio di settembre. All'inizio di settembre, dopo la convention repubblicana, i due candidati erano testa a testa, anzi John McCain stava andando avanti. È stata la crisi economica che ha drammaticamente cambiato tutto, quando il 14 settembre colla Lehman Brothers, il ceto medio, io ero in Virginia, uno se ne accorge si accorgeva subito che chi aveva problemi economici li addebitava ai repubblicani. A quel punto le elezioni erano finite. Tu dedichi nel tuo libro un capitolo che si chiama Il riscatto degli afroamericani, che tra l'altro è simboleggiato da due luoghi estremamente rappresentativi per la questione razziale oggi in America: Selma, dove avvenne la famosa marcia, e Iena, invece, dove in tempi recenti, no, c'è stato questo caso di ragazzini forse perseguitati per il colore della loro per la, il colore della loro pelle, e poi Filadelfia, dove il grande discorso del marzo 2008 ha in un certo senso fatto fare il salto di qualità alla questione razziale. Ma tornando ancora una volta a una cosa che secondo me ormai abbiamo già imparato a dare, no, per la velocità che contraddistingue le cose oggi, per scontato, ma il fatto del nero eletto in America, vogliamo tornarci ancora un secondo a ragionare, perché tanti pensavano che alla fine tutto ciò non sarebbe stato possibile. Sì, c'è la motivazione dei bianchi e la motivazione dei neri. La motivazione dei bianchi è che Obama è un biraziale, lui parla con un bianco, ha la formazione di un bianco, c'è la nuova generazione che è colorblinded, non vede il colore della pelle. E quindi votando per lui hanno votato in realtà per uno di loro, fa parte della classe dirigente del paese. E poi c'è la motivazione dei neri perché hanno votato per lui. Non ci sono solamente i ghetti neri in riscatto, ma c'è la borghesia nera, quella del nord-east del paese, alla quale lui si rivolge dicendo basta proteste, basta vittimismo, bisogna lavorare come e meglio più dei bianchi. È l'America che si trasforma, che cambia, tanto l'America bianca che quella nera, che ha reso possibile Barack Obama. Ecco, in questo cambiamento americano, secondo te si è rotto definitivamente un argine, cioè anche il ridisegno etnico, razziale d'America fa sì che da adesso in poi l'America, politicamente è aperta a ogni soluzione necessaria, a ogni soluzione possibile? È stato sicuramente uno spartiacque, ed è interessante come adesso la questione etnica in America è soprattutto la questione ispanica. Cioè gli ispanici che dicono noi boicotteremo il censo perché chiediamo più diritti, richiediamo la riforma dell'immigrazione, è questa la vera spina sulla quale Obama dovrà confrontarsi. Un anniversario, quello della, che arriva tra pochi giorni, della elezione di Obama, a che temperatura? In chiaro scuro, perché i sondaggi del presidente sono in calo, mentre la First Lady non potrebbe essere più popolare, tutti certo. La amano, tutti la cercano. In realtà per il presidente è un anniversario un po' amaro. I suoi lo amano sempre di più, ma gli indipendenti che consentivano a lui di vincere in molti stati nel Midwest hanno grandi dubbi. Grazie. Il libro di Maurizio Molinari si chiama Il paese di Obama, come è cambiata l'America, edito da La Terza, per seguire dall'inizio, non fino alla fine, fino a oggi, la parabola straordinaria di quest'uomo. Ed era Buongiorno America di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti. L'email è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3, la replica del programma come sempre 10 minuti dopo mezzanotte, e l'appuntamento domani qui su Radio 24 attorno all'1:30. State tutti bene.